al mio furor fuggiti in vano il suo destino e questo umano parlar dovete a noi svelate vuoi mai pensiero chi te la seguì e sono qui e la cura il cuore e il rito alla vendetta e la pesa in vita su voi del ciel cadrà il furor degli innocenti e il protettore Pensier di trasequire, al mai, pensier, al mai,